781. Pesche in ghiaccio. È l'unica ricetta di questa raccolta che non ho provato, perché quando una signora inglese venne spontaneamente ad offrirmela, la stagione delle pesche era passata e il tempo incalzava per la presente ristampa. La signora me la raccomandò assicurandomi che era molto gradita nei suoi paesi e perciò azzardo di pubblicarla. Si prendono pesche spicche, mature e sane, si gettano due alla volta per un minuto nell'acqua bollente e tolte dall'acqua si sbucciano senza toccare la polpa. Poi si involtano molto e bene nello zucchero bianco in polvere e si collocano in un bolo, ossia in un vaso fondo e decente. Indi si prendono tanti quadretti di zucchero quante sono le pesche, si strofinano sulla buccia di un limone di giardino maturo finché ogni quadretto sia si impregnato dell'essenza del limone e si nascondono fra le pesche. Si lasciano così accomodate per 2 ore almeno, il più non guasta. E prima di portare il vaso in tavola, si tiene tutto chiuso e coperto fra molto ghiaccio per 2 o 3 ore. Ritornata la stagione delle pesche, non ho mancato di mettere in prova questa ricetta e posso dirvi subito che essa ha del merito. Io mi sono servito di un vaso di metallo, di zucchero a velo a buona misura, e ho sparso sale fra il ghiaccio.